Primavera ritorna a fiorire i giardini di rose, quante rondini gaie cinguettano intorno alle case, ai balconi s'affaccia alle belle sorridono ansiose, c'è nell'aria un poema di sole, un invito all'amor. Rumba, rumba, rumba all'italiana, ogni contrada di bellezza è piena, bionda la fiorentina, bruna la siciliana, fiore fra tanti fior la romanina. Rumba, rumba, rumba all'italiana, ogni canzone nasce al chiar di luna, musica d'ogni cuore che nelle notti chiare va sospirando sempre amore, amore. Volano gli stornelli del mare ai verdi colli, cantano agli occhi belli, lasciatele passar, fermati ad ascoltare la nostrana, rumba, rumba, rumba all'italiana. Le ascine hanno lo stesso profumo di Villa Borghese e le notti ricamano i sogni tra il mare e le rose. Forestiero, se tu ti innamori di questo paese, è un amante che porti nel cuore lontano con te. Italiana, ogni canzone nasce al chiar di luna, musica d'ogni cuore che nelle notti chiare va sospirando sempre amore, amore. Lasciatela